Ola. Ola. Ola. Ola. Attenzione, binario 10, cambio. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Ora. Attenzione, binario 10, cambio. Ola. Ola. Ola. Attenzione, binario 10. Ola. Ola. Ola. Ola. Uno, due, tre, prova. Binario 10, cambio. Attenzione, binario 10, cambio. Sì, Eugenio, avanti, buonasera. Andate a prendere il microfono. Mettilo a casa, 5 minuti. Non fa metterla a casa. Tu mi dai se ti sento. Dopo è pronto, lo vai. Andando a metterlo, stai lì. Ah, lì a casa lo stai mettendo. Oh, vai io. Facciamo tutte le prove, cambia. Via, via, via, scorso, ok. Mi ho detto mi armando la custodia isola della Sardegna, adelante. Ho detto mi armando la custodia isola della Sardegna, adelante. Quanto te l'ho comprendito, mio hermano? Scusi, l'isola della Sardegna è la città di Sassari. Di Sardegna. Scusi, un altro piccolo dito. Il diritto, ascoltiamo per la torre, per la vera della città di Sassari che ti chiama. Attenzione Eugenio, se ascolti un più lungo chiama, cambia. Eugenio. Attenzione con le 10, l'isola sarda, la città di Sassari, nord Sardegna, fa chiamata e si sintonizza in ascolto, cambia. Non ti lascia l'uvola, cosciente. Anche se l'amplificante hanno bisogno della bocca più vicino. E proprio ecco non si capisce nulla. Questo momento è da due. Comincia da due e poi aumenta, perché se no non si ricordo di nulla e ti accaglia le parole. Ecco là, vai. Adesso non ce n'è proprio. Guarda la terza in avanti. Metti la 3 direttamente. Adesso la 3. E anche 2,5. Poi vediamo se da aumentare. Ma c'è un effetto reverbero, appena più avanti porto. Prova a fare un passaggio lungo, se no non capisco, oggi. Sono così e oggi. Se sale con un bambino. Andatene appena a vedere. Appena. Ecco. Appena di ecco. Passaggio lungo. Pone di un goccio di acqua, lascialo così, va bene. Stanno dicendo i pulsanti, li provati. Pulsanti che c'ha, li provati. Non è quello che ho fatto io. Ma se il 2000 metti tutte le rotoline a 4. Se il 2000 li metti tutte le rotoline a 4. Via, prova. Aspetta un attimino, eh. Adesso, ecco il volume. Tra il 4 e il 5. Ecco volume, c'è scritto. Ecco volume. Mi sento non lo so. Quante l'altra, perché era tra il 4 e il 5. Adesso l'ho chiarificato, però lo passa giù. Quando c'è lei, come devo imparare a parlare piano, perché se no si accavallano le parole, capito? Comunque adesso sia l'eco che il volume è molto, diciamo, abbastanza alto. C'è neanche troppo. Ma se lì anche, l'eco va bene, 7 va a 4, sono 4 e 5. Come ce l'hai adesso? Ecco di lì. Ce l'ha qua la guarda. Adesso va bene, però dovresti imparare a parlare a voce, diciamo non in fretta. Vedi come parlo io, tranquillo. Questo qui come ti è arrivato l'hai attaccato? Ma lo so, attacco dove l'ha palato. Ma lo so che è così, è l'altro che ti ha fatto il microfono. Sta funzionando o sta funzionando quel microfono? Allora l'avete distrutto voi, perché era nuovo di zecca, mai usato quel microfono. Sì, perché? Guarda, questo qui è quello che sto usando, lo stesso microfono che è regolato come te l'ho fatto regolare a te. Come va? Sì, un po' perché ti risulta un po' fa la radio, forse vuole portarle dei cibi. Fa cuffa la radio. Tu hai una timbrica che per quel microfono forse non va bene, te la fa cuffa. Chiederei contro gli altri, se lo diranno anche gli altri. Secondo me quel microfono, vabbè, solo a chi ha acuti, a chi ha la voce acuta come la mia, ma chi ha la voce grossa, capito? Vabbè, dalla recezione mia. Se è troppo forte, metti con lì, quello lì lo abbassi appena, ecco di lì. E forse è troppo forte la radio. No, metti la 3, non esagerare a Bassano, metti la 3, lascialo così. Va bene, sì, ma ci vorrebbero più acuti, te lo sto dicendo. Come microfono va bene, però ha pochi acuti, c'è troppi bassi, ma a volte quando tu ti ascolti è falso lì quello che ti dà, non è modulazione giusta che esce poi dall'essere. Ti ascolti lì, magari ti sembra bella, oppure se che sia anche la mia ricezione, tu stai usando un apparato nuovo, è l'ultimo che ho comprato, e ti ha sempre ascoltato bene, ma io ti sento un po' cupo, ti dà questa facilità nella voce. Adesso provo ad attaccare la campanata, ti vuole ascoltare col Galaxy, voglio vedere come ti ascolti. Questo qui è uno, fatta col Galaxy, vediamo un po'. Ciao Massimiliano, io adesso ho provato ad attaccare il Galaxy per vedere se la ricezione, ma anche col Galaxy non si può fare, non me ne ero accorto di attaccare. Niente, ho detto che praticamente ho attaccato il Galaxy adesso per vedere se lo sentivo diversamente, ma lo sento sempre un po'. Sì, sì. Buonasera Gianni. Buonasera, cambio. Come facciamo questo? Se riusciamo a fare per mezza mattina. Ma Rogero, comunque a me non arriva tanto bene. Papa Rogero, ma non mi sta arrivando bene, c'è un po' di cosa strano che non riesco a capire cosa sia. Positivo, mi sta arrivando la tua voce che vibra proprio. Oh. Va un po' meglio, non molto, ma un po' ha cambiato. Un conversatore. Massimiliano? Sì. Buonasera a tutti Marco, ma non mi dire che quello è DM1000, no? No, dico quello di Eugenio, perché c'ha la voce che sembra un signore anziano. Probabilmente bisogna mettere il trimmer dell'apparecchio a manetta, poi regolare il trimmer interno del microfono. Caspita, non lo stavo riconoscendo mica da lui. Da tarare un po', Da tarare un po' perché sì, è strano, è un po' Poi ti cambia la voce, sembra un signore anziano, non sembri tu, capito? Allora, due, ma uno è l'autoascolto, però serve solo se lui ha l'autoascolto nell'apparecchio, se no va messo a zero. Ricordati, Mike Gain dite quanto vuole, io l'ho messo a manetta, e l'autoascolto a zero possibilmente, perché sennò potrebbe interferire o fischiare, capito? Adesso non mi ricordo qual è dei due l'autoascolto e qual è il mic gain, non me ne ricordo. Vabbè, comunque te ne accorgi perché tutto da una parte non esce e tutto dall'altra è al massimo, capito? Poi di conseguenza si mette anche l'autoascolto a zero, che quello non serve. Sì, sì, esatto, sono quelli. Ma io ci ho provato dall'esterno, ma mi viene male. Non vedo il trimmer. Preferisco aprirlo e regolarli una volta per tutti da dentro. Ciao anche a Gianni. Sì, ciao. E occhio, quando lo apri, è un jeep perché c'è i fili molto delicati e si staccano su. Oh già, ma sai chi sembra? Quel signore di Alghero. Ehi, Giuseppe. Quel canetto in più ti dà, dai. Confermo. Ehi, anche questi, prova a aumentare ancora. Ma lui cosa sta toccando adesso? Che rotellina è? La rotellina dell'amplificazione. Ah, ok. Yeah. Io può darsi che sul 48 sia più cupo, l'ho provato sul 3009 ed è un bijou proprio, lo stesso mic, comprato dalla stessa persona peraltro. Poi ricavi la capsula, magari la capsula che la tua voce non si addice, butti quella di citofono. Ciao Gianni, buona continuazione, buonasera. È un po' una delusione perché col microfono esce bene sempre, è molto strano, è strano. Ora sì che sia da regolare dall'interno come i buchi, bisogna andare un po' di amplificazione. Diciamo che i vecchi ci vanno meglio, è vero Marco, i vecchi escono meglio, perché io ne avevo provato uno, ho detto che ci va, ma adesso io te lo faccio sentire, adesso microfono, quello col Cobra, adesso se mi date 5 minuti e provo l'altra. Allora, siamo attesa al topo, Massimiliano, allora, Superstar 3009 con Proxel DM1000, guarda la differenza da lui a me, però c'è da dire una cosa, che mentre l'Alan 48 esce leggermente cupo, no? Questo esce cristallino, limpido, perciò se un apparecchio esce cupo, gli metti un microfono che esce leggermente cupo, sì che peggiori il risultato, invece qua esce cristallino, esce proprio perfetto già di suo, mettendogli questo gli dà una bella tonalità calda senza peggiorarla, capito? Mi vedi com'è? L'abbiamo comprato dallo stesso venditore, capito? Sì, sì, sì, qua ho messo il trimmer della modulazione M a manetta, perché solo la soffoca, giustamente la soffoca la radio. E il Proxel DM1000 è a manetta, cioè il trimmer della modulazione è a manetta. Adesso sono a 20 cm dal mic. Com'è? Buona? Beh, me l'hanno già detto tutti, è bella, cioè la mia voce la rispecchia, diciamo. Sì, infatti, io direi che tutti i baracchini d'obbligo bisogna alzargli il trimmer della modulazione M, perché sennò sono soffocati, capito? Ecco qua, questa è la modulazione, senza eco, e se no mettiamo un po' di eco. 3 e 3. Oh. Ecco qua. Messo 3 di volume e 3 di ripetizione, si sente già l'eco, sì? 2, 3, 1, 2, 3. Il mio, come va? Qua è il Cobra col DM1000, dai. Cazzo, sì, l'eco lo sento, dai. Ehi, già, naturalmente non bisogna parlare troppo vicino, perché sennò, parlando 20-30 centimetri dal mic, così, sì. Sì, non esce così quello, ma sicuramente, tanto tu lo sai fare, no? Glielo fai tu, gli apri il trimmer della modulazione, tanto quello è il modello vecchio, quindi è conosciuto. E poi gli regoli il microfono, il Proxel, glielo regoli da dentro. Lui ha detto che in camper, siccome c'è il rumore del motore, no? Non lo vuole a manetta possibilmente, lo vuole che ne so metà, poco più della metà, insomma, ve lo regolate, dai. E oggi non si è sentito Claudio, no? Perché c'è quello di bottiglia, il trimmer chiuso del baracchino, quello è il collo di bottiglia. Eia, riprendi Gianni. Ciao, vabbè, già lo risolvi io, c'è un problema. Volarlo, si mette all'ascolto, se non esce. E ti fa ascoltare anche con le cuffie da un'altra parata, non è che è quello il problema. Cioè così, quando me lo devo regolare me lo regolo io. Scusa un attimino, ma non hai due di apparati? stacchi la cuffia all'altro apparato, si ascolta come sta uscendo e via. Poi c'è qualcuno che non controlla anche il full. Marco, poi come l'ho fatto io, del baracchino a Manetta e di Emilia a Manetta, così siamo sicuri. Sì, mi dispiace che ci sia rimasto un po' così, però gli aggiunge, guarda, quel microfono gli aggiunge 50 anni, per come lo sento io, sembra Giuseppe D'Alghero, o come si chiama, Giuseppe, giusto già? Giuseppe. Eia. Infatti, di solito alla radio squillante, Eugenio, però adesso che ci penso, non vorrei che invece per il 48 sia più adatto un microfono che esce più acuto. ZG. Oh, vabbè, dai, si vedrà. Eliminato il colore bottiglia del trimmer, si alza il microfono e si vede come esce. Certo, meglio non può uscire, una volta aperto il trimmer, quella è la radio, capito? Sì, Gannuccio, pure quello della ZG ti va bene, quello col tasto giallo. Sì, però mi ha fatto ascoltare Stefano De Piacuto, in effetti. Essere più fastidioso all'orecchio. Quello va bene, in banda laterale, per i DX, quello ZG. Invece per una radio un po' più calda, diciamo, in AM più apprezzabile, meglio questo, con questo apparato, capito? Comunque, già, mi ricordo che sui forum, tipo Roger K, la gente si lamentava che anni prima i DM1000 degli anni prima erano cupi, uscivano a cupo. Invece io poi l'ho provato su questo apparecchio e sono rimasto entusiasta, tutti mi hanno lodato la modulazione. Quindi forse prima uscivano a cupi, poi li hanno un po' migliorati, deve essere. Quanti watt hai, Eugenio? Oh, a voglia! Io con 5 ampere pilotavo 30 watt SSB, 15 continui, a voglia Massimiliano. Eh sì, mamma mia, caspita, sembra un signore, un anziano di 70 anni, lo sai. Se no mi gli do il mio, facciamo cambio, se mi va bene quello gli do ZG M95, che si è piaciuto. Vi accontentare tutti oggi. No, te lo do e boh, facciamo cambio. Io ti do quello, nuovo, e tu mi dai quello che non va bene. Però prima fate le prove e poi decidete. Se vuoi te lo do a provare, non ce n'è problema. Vabbè, dai, ma già lo sai, non mi metto problemi se lo vuoi provare. E qua troviamo il modo di fartelo avere, magari tramite Massimiliano. Piuttosto, Massimiliano, una cosa mi preoccupa. Allora, il DM1000 sarà bello quanto vuoi in casa, ma messo in macchina mi fischiava, anche con 4 watt mi fischia. Rientri dall'antenna della macchina, è poco schermato per i rientri. E non lo so come andrà nel camper, non lo so. Questo me ero dimenticato di dirglielo. Gli avevo detto, ma forse era tardi. Fischia, non c'è niente da fare, fischia. Cioè, rientri proprio perché è tutto plasticaccia, non ha schermature. Speriamo non gli ha problemi per il camper. Se no te l'ho detto, me. Vediamo lo ZG, se lo prova, se le piace si tiene quello e mi dà il prox, il DM1000. Sì, ah. Ti devo contrariare, perché io in macchina l'ho sempre usato, non mi ha mai fischiato. Probabilmente l'impianto tuo, che è tutto volante, che innesca, che fa, che in macchina mia non ha mai fischiato. Io lo usavo con la Midland Blues e andava benissimo. Ah, può darsi che sia perché io ho la base magnetica, può darsi che non facendo bene massa l'antenna sia di rientri. Però per la 27 ho solo base magnetica, capito? Se con la massa effettiva non dia problemi, ecco. Secondo me quel microfono non ce la fa spingere Massimiliano, come gli aprirà DC va la grana. Secondo me è bloccato, non riesce a spingere. La base magnetica attaccata sul cofano, no? Sul cofano anteriore, no, proprio. Sarebbe meglio mettere quell'attacco che ho io, che orienta in tre posizioni, ruota se stesso, cioè, puoi orientare come vuoi, e mettere l'antenna sul bordo del cofano con quel sistema. E la massa effettiva però non cava al primo bullone disponibile, anche se riportata non fa niente. Che quello per non rovinare la carrozzeria c'è una piastrina di alluminio che evita che le viti abitando buchino la nicchia. Mi fai una massa riportata più breve possibile magari. Non so cosa consigliarli, Massimiliano. Non ho capito cosa ha detto. Sto cercando di ricordare il nome di quell'attacco della Proxel. Mettere a cofano, a portellone posteriore, a portiera. Lo puoi mettere comunque sia una fessura. Io l'ho messo sulla portiera, all'angolo, l'angolo della portiera, in alto, non proprio all'angolo perché poi c'è un rigonfiamento della, diciamo, della portiera, no, del metallo. Lì ci metto le antenne VHF e UHF per il PMR. Invece il baracchino, vabbè, giustamente ce l'ho, cioè, giustamente, a base magnetica. Non l'ho mai voluta bucare, anche se è vecchia la macchina. Vecchia, eh. Guarda, faccio difficoltà a capirti. Sei così cupo. È troppo... Così è me. Oi, oi, siccome ho pindacciato Gianni, mi... Non parli, Gianni. Senti, tu sicuramente ha pindacciato Gianni. E di sicuro. E io, zio Claudio, ce la fai a entrare? O stai facendo le orecchie di porco oggi? Dov'è che lui quando si provano microfoni non entra? Muri alla fine. E questo qui va anche a microfono. Se la mettono al massimo e si fa l'infinito. Sì, via. Qua non lo so se verrà all'infinito, che ne so, lo metto a 6. Boh, regolate bene così, 1, 2, 3, 3, va bene, 1, 2, 3, prova, ok. Eia. Comunque la verità, il DM1000 io l'avrei comprato che senza l'eco, sta casca bene di radio, non mi interessa l'eco, non lo so mai, c'è in tutti quegli apparecchi, 5005, 7009, 9009, non lo uso, posso usarlo così per giocare ogni tanto come ho fatto adesso, ma... Il resto non mi interessa, ecco. Vabbè, sono gusti, dai. Io lo uso per il Papa. Lo regolalo tipo Papa, fratelli e sorelle, tipo Piazza San Pietro. Sì, l'eco funziona correttamente, però l'appunto è la trasmissione che occupa. Già rimediate, dai. Poi te l'ho detto, nel caso che non rimedi, che è troppo cupo, ti provi lo ZG, se ti piace ti rudeni, capito? Sì, guarda, troppo forte. Da Gianni, tu sei in ferie, vero già? Via. Aio, portiamoci le polacche. Proprio in ferie, dai, sono al recupero di ore che dovevo recuperare e me ne stavo facendo recuperare. Oh, e quanti giorni sei a casa? 2 settimane devo stare. Ah, vabbè, almeno riposo il piede. Se vuoi poi, sera ti avvicino con la radio, la usi. C'hai l'MB più 4 o 5, non mi ricordo qual è, attacchi quello, alla presa a 4 poli, è ancora migliore. L'attacco del Galaxy, c'ho il coso, come si chiama? Vabbè, comunque, salvetta. Meglio ancora il Sadelta. Peccato che non li fanno più quei microfoni, cioè che non li vendono più nuovi. E gli devi andare solo sull'usato, i ceffi sono veri scacciavitati, spariti sono quei microfoni. Shure, c'era quello Shure col ho visto Mario Lattari, aveva una limpidezza, non amplificava molto, ma aveva una chiarezza di radio spaventosa, effetto presenza proprio. Poi lo stesso Turner, tutta roba vecchia, tutta roba che o ha chiuso la fabbrica, non lo so, se no li farebbe ancora. Adesso ci dobbiamo calare ZG, Proxel, cos'altro c'è? Nuovo di negozio. Tutto quell'esperimento fallimentare con Schia Static, quelle caffonate americane che poi era tutto metallico, tutto brutto. Nuovo rosso, vedi? No. Avevo il D104, come si chiamava quello lì? Quello che aveva la griglia tonda metallica di acciaio, cromata, la griglia cromata. È squadrato come microfono, però mi aspettavo di meglio, invece mai più. Ho scoperto che questo esce molto molto meglio di quella porcata di Astatic, capito? Gli americani ne fanno un grande vanto e sono tutti... Ho avuto Diavolo Rosso, l'avevo pagato 70 euro e mi faceva la voce metallica, tutti dicevano che era brutta, addirittura c'era scritto che non si sentiva il vento, se lo usava in macchina, c'aveva lo spessore per appoggiare all'altro, di modo che non fosse troppo vicino alla bocca. Insomma, c'era tutte queste particolarità, però qui alla fine la voce era metallica, ma dipende forse anche dalla timbrica, magari uno che ha la voce molto grossa riesce ad avere una timbrica buona con quei microfoni, capito? Oh già, può darsi che quello vada bene con i camionisti americani enormi che hanno quelle voci di tono basso a basso, e forse con quelli va bene, ma con la voce mia da castrato non va bene. E infatti anch'io non ho più usato già, ce l'ho ma no, non lo so più, e viaggi dai. Massimiliano, ci sei ancora, riprendi. È una cosa strana, invece è un capogiro, deve essere l'altro di cervicale, un capogiro strano di colpo, senza motivo. Ma hai mosso il collo? E così? Anch'io c'ero la cervicale, sai, certe volte a letto come giro il collo mi viene il precapogiro. Massimiliano, ci sei ancora? Adesso dico, vecchio beato, mi tiro di nato. Lei ha copiato. Oh, Claudio non è entrato, strano. Cosa eccezionale per lui, mi. Claudio, cosa c'è? Sei triste? C'è don qualcuno? Entra, se all'ascolto. No, forse non c'è proprio, mi. Non c'è proprio, Gianni. Oh, via. Vai, un altro giorno a marcire a casa. Vai così. Meglio di marcire in mezzo all'acqua come ho fatto io stamattina. Sono uscito dalle 7 di mattina e fino alle 11 e mezzo a mezzogiorno ho preso acqua per andare. Poi, per carità, sono andato a fare un po' di scioni, sono andato a fare il prelievo del sangue stamattina. E sempre piovendo, sempre piovendo. Ho preso un'acqua. Ma è di moto in macchina? No, in macchina, e ascolto, dico la verità, volevo andare in moto perché dovevo andare all'ospedale, sto qui, sto facendo il parcheggio. Meno male non mi ha messo in moto, se no sarei preso uno di quegli acquattoni e non veniva bene a dirlo, che se c'era tutta la pioggia, vabbè, ma non me ne ha fottuto. E la batteria era scarica, si è scaricata perché non la stavo usando e quindi è partita stamattina, la stavo per prendere, messa in moto, se non stavo in moto non partivo, allora ho detto vabbè, prendo la mano. Di quando non parti un mezzo prendi l'altro, capito? Per me due. E vabbè, in moto scuterò, la stessa cosa per me, sempre la stessa cosa, prendi aria come la prendi in moto a prendere lo scuterone. 160 km orari, ho voglia di orare di aria da frente. Non riesco a capirti oggi, sinceramente, vedi tu l'altro microfono perché non ci riesco a capire cosa dici. Marco, ce l'hai il telefono là, registrando, così glielo fai ascoltare. Non fa. Che distorce poi come lo ritrasmetto, ci vorrebbe WhatsApp, capito? WhatsApp te la manderei tramite lì, ma lui non ce l'ha il mio numero. Falsifica la voce a volte, non si dice falsifica, e quindi capito, così fai, come se avessi la patata in bocca. Sì, Eugenio, non ti fidare dell'autoascolto, io mi sono mai fidato, perché a me sembrava in cuffie riuscire bene, invece poi gli altri mi ascoltavano male, tipo troppo cupo, acuto, capito? Cioè, quando tu, via ossea, senti la tua voce nelle orecchie, ti sembra di uscire bene, capito? E parli, si trasmette per via ossea alle orecchie, quindi ti sembra di uscire bene anche in cuffie, in realtà poi no, noi siamo solo noi. Comunque, appena passato questo periodo di piogge, io voglio una moto disponibile. E anch'io non ho il coraggio di scendere in garage, perché sicuramente si è scaricata la batteria, capito già? Lo potremo, faremo l'assicurazione per il mese prossimo, o anche due mesi, fra due mesi, l'assicurazione. Adesso sai cosa faccio invece? In garage, stacco la batteria, chi la carica o meno, porto a casa, gli do una bella caricata col caricabatterie, poi una volta carica la metto in macchina, nei sedili dietro, indovina perché? Gianni? Dovrai attaccare qualche cosa, amplificare tu il bus? No, perché se, diciamo, la batteria si rovina per la solfitazione, cioè sulle pareti di piombo si deposita questo strato leggero di zolfo, no? Che poi alla fine la interrompe, non c'è più passaggio di elettricità. Se il mezzo rimane molto fermo, queste particelle si attaccano alla parete del piombo più facilmente, mentre se il mezzo è in movimento, no? Tra traballamenti e buche, questo deposito va più in fondo. Quindi io voglio caricare la batteria della moto, poi la metto in macchina, così uscendo la batteria si sballotta un po' e questo zolfo, anziché depositarsi sulle camere, sulla parete del piombo, va in basso, capito? E così, dai, quindi voglio fare così. Poi quando e se rifaremo l'assicurazione, allora gli metterò la batteria bella carica. Marco, basta fare come faccio io, gli metto il grasso e risolto il problema. Il grasso per cosa? E morsetti, gli metti il grasso e lo si deposita con lucido. No, no, no. Lo zolfo, che stavo dicendo, io intendevo sulle camere interne della batteria, non sui morsetti, no. Sulle camere interne della batteria, no, dove c'ha quelle pareti di zolfo, lì si deposita. I morsetti è un'altra cosa, magari fosse così facile. Yeah. Però domani facciamo il tempo, la metto in moto, ma io faccio in fretta, attacco i cavetti alla macchina, in 5 minuti la metto in moto. Una volta che è moto, poi scendo e faccio un giro a portatore e si carica tranquillamente. Mi Eugenio, mi con la voce naturale, mi. Ma così comprende, prima sembrava altro, insomma, buh. Adesso Eugenio, vabbè, ma io vado con la gente che ha lo scooter e anche che c'ha le moto, che non ha di questi problemi. A me piace lo scooterone perché ti disimpegna, non devi cagare con le marce, con le cose, pigli che vai. Dammi una futti, io vado, lo uso solo per viaggiare, per fare un giro così, cosa me ne frega di avere una moto. E anche la Vespa mi piaceva un bel. Si chiama Massimiliano. Sono punti di vista, avanti Massimiliano. Il discorso è la moto scooterone, che ha detto che loro non ne vogliono gente che ha lo scooterone, dipende sempre da tutti i visti. Quello che lo uso io, a me mi va bene lo scooterone, se trovo a venderlo adesso ve lo vendo pure. C'è la moto il T-Max, ti dico la verità, questo è stato solo un ripiego, perché il T-Max costava troppo e non mi volevo mettere il ratte, l'ho comprato in contanti, questa qui, e almeno non ho avuto problemi, capito? Ma potevo mettermela qualche ratta, io l'ho pagata 7.000 euro questa qua, e mettevo altri 3.000 euro di ratta e mi prendevo il T-Max. Vomitando, qui si diventa i bambini miei a te in moto. Ma io l'ho provato Massimiliano, te lo sto dicendo, quando ce l'avevano Claudio e Franco mi ha dato un giro al quadrato, perché mi sono fatto dei miracoli. Ho fatto una tirata anche per le lacrime, ma una cosa spaventosa la potenza che aveva. E di solito i veri motociclisti, quelli con Harley, gli scooteroni non li possono vedere, capito? una questione di modo di pensare, così, capito? E poi mi, se volevi un custom potente e veloce, dovevi pigliarti il VMAX 1200 a Yamaha, lo conosci, Eugè? Eia, quello sta dietro a un CBR, mi. No, io sarei più arleista, o quantomeno custom giapponesi. Sono esaltati che se c'erano le armi, c'erano tutti i fronti, le cose, le fanno scoppiare, pum pum pum pum, facci vedere, vai vai. No, io capisco il pensiero di Eugenio. Guarda, io a moto raduno avevo visto per la mia anni fa, no? Ho visto per la prima volta una Softail Springer, e ne lo sa, sono rimasto estasiato, mio Eugenio. Ah, anche tu un Softail, no, per il mio fisico è meglio un 883, non c'ho tanto la forza per moto molto ingombranti. L'883 è carina, non è troppo grande di cilindrata, capito? Più pratica la vedo. Invece certe moto tipo Electra Glide sono troppo ingombranti, hanno l'ingombro quasi di una macchina, è come dire Goldwing, me. Cioè per i miei gusti sono troppo grandi. Anche la 1200 va bene, mi, grosso modo siamo lì con l'883. Se la Magola ne ho visto una che c'era anche il baracchino di Averizio, mi ha detto che faceva solo ascolto, che non è che lo usava, faceva solo ascolto in cuffia tipo Easy Rider. Ehi, l'altra notte l'hanno dato Easy Rider, mi, me lo sono guardato tutto, lo bello di un film. Ascolta, ma tu fai parte di qualche gruppo di motociclisti tipo Sibone, sta roba del genere? E poi però sei uscito? Oh, ma perché non... come mai? Non so, preferisci essere indipendente, diciamo, dai. Lo so, quando sei del gruppo, fare tutti i percorsi loro, si fermano tutti assieme, mangiano tutti assieme, trombano tutti assieme, alla fine... Non è libertà quella, capito? Infatti è meglio come fai tu. Sei più indipendente, fai quello che vuoi tu quando vuoi tu, con la moto, capito? Vabbè, ma la moto è bella andare tutti insieme, non andartene da soli. Quello è un trike, vero? Trike. Eugenio, tu le conosci le Boss Hoss? Praticamente sono quelle moto custom, non so se siano americane o dove le facciano. Pare americane, e ci mettono sotto un motore Chevrolet 5007, non so se le conosci. No, forcella normale, diciamo che sembra un Harley, però sotto c'è un motore Chevrolet 5007, ma quelli sono pazzi, dice che c'è una coppia che ne straccia l'asfalto, e ha solo due marce, mi pare alla prima e la seconda, perché il motore ha talmente tanta coppia che non ha bisogno di tante marce. Già, lo devi vedere, sono immense, sono queste roba le motore, e mi pare che certe volte le facevano anche 6.000 di cilindrata, dipende dalle annate. Già, una moto con motore 5007, non so se mi spiego, una coppia paurosa messa, cioè un motore di macchina messo su una moto, macchina americana, cavalli americani. Adesso parlo queste americanate, diciamo, fatte così. Gli americani vogliono essere affari tutte le parti, hanno la mania di grandezza. L'hanno fatto anche con i cani. Il cane è quello che c'ho io. E praticamente loro l'hanno incrociato col ciuccio per fare quel cane tutto quanto col muso tutto pompo. E hanno fatto mille cose. Le cose le ingrandiscono, tu fai una cosa e loro le ingrandiscono i baracchini per dire sorti con fatte a gogo. Fanno tutte le cose grandiose. Il buono zio che è morto, è abitato in America da quando aveva 18 anni. Fatto, diciamo, la fortuna, ha cominciato come peccatore di porto, poi praticamente è diventato di una fabbrica dove comandava tutti gli operai, eccetera, eccetera, ed era abbastanza soldi. Quando veniva qua in Italia a trovare mio padre, dal frattempo, comprando un abito e non lo mette proprio. Ci provo la macchina fotografica per fare fotografie cavalcata e la mette, prendeva le fotografie e la macchina la regalava a mia sorella o a me, capito? Ha fatto così. Ehi, senti questo che sta ragliando sotto, un coso è me. Uno spagnolo. Poco fa. Via. Bella teccia anche questa, amici. Ho detto bella teccia anche questa. Ecco, vedi, con l'S9 esci bene. Popone ne ha uno ed esce tutto sbagassato, non so perché. O non la sa regolare lui, non lo so. Bella, bella. Bene, io fate qualcosa di cui parlare. Poi io sì, a me piacevano le Harley. Anni fa poteva essere un sogno, ma poi senza soldi il sogno si disgrega, capito? Come fanno a farle scoppiare? Io ho visto un matrimonio che erano tutte irredibili, secondo me c'era qualcuno, qualche motociclista. Ce l'ho messo tutte in fila, ma si vede all'uscita della chiesa, da una parte e dall'altra. Quando sono entrati gli sposi l'hanno fatta scoppiare, pum pum pum pum pum, ma cosa li mettono per scoppiare così? Tipo quando c'è la candela sporca. Sai come fanno? Lo facevo anch'io con la Honda 400. Mentre insomma stai accelerando, so, dai un'accelerata, spegni il comandino che spegne la corrente alle candele, un attimo dopo lo riattacchi, fai il botto, perché quando spegni il comandino alle candele la miscela continua a fluire nei cilindri e poi la butta fuori nella marmitta, no? Come poi tu dai un attimo dopo corrente di nuovo alle candele, detona la benzina nel cilindro e anche nel tubo di scappamento dove si è accumulata, capito? Pericoloso, io ho visto anche il fuoco uscire. Sì, beh no, a meno che non si crepi la marmitta, sei vecchia. Però, boh, io lo facevo, come scendevo nei cosi, toglievo la cosa, dopo un secondo, pam, pariva una fusilata. Oh, non lo sapevo. Boh, io lo facevo con la Honda 400 Ford del 77, ma facevo una, due volte, anche distanziata, tanto per tante volte di seguito, no? Far male anche la marmitta, magari si spacca. Allora questo matrimonio, non so se ci racchetti oggi, questo matrimonio lì di fronte al comune, la chiesa che c'è di fronte al comune, lì si sono messi tutti sul marciapiede all'uscita della chiesa in fila, erano tanti, ma praticamente la fila da una parte e una fila dall'altra, come sono usciti gli sposi, hanno cominciato a cu. Io proprio in quel momento stavo procedendo in comune e mi sono fermato a guardare, ci vedono le fiammate. E poi ti dà il conto, mi, ogni conto che ti esce. Guardate, ti serve oggi. Io vi servo. Proprio Maccari, oia. Come poi c'è tagliato che fa certi conti, però cambia questo, cambia l'altro, è un gommino, ti togli praticamente tutta la moto, te la dà che va bene. Se vedi dici che sono consumati, se vedi che sono consumati ti cambia le pastiglie, fai tutto lui, poi quando arrivi lì. Sono 400 euro, 350 euro. No, no, io non c'ho attrezzatura. Tu vedi, c'è il posto per farlo. Io abito in un palazzo, allora dove lo faccio? Ciao, se volete accendomi alle 2:30. Se sono in casa accendo, ok, così vi do il controllo. Ciao Massimiliano, ciao, buona serata. Tu vedi, ancora un conversatore. Conversatore, non mi veniva la parola, te li mai. Allora, un piatto brutto. Marco, Condo, quando vuoi ci facciamo una tournée. Ripeti Eugenio. Copiato Massimilià. Ah no, Gianni era. Dimmi, per cosa? Sì, da San Giovanni sì, caspita. E che caspita, lì punge, ottava, voglia. Ho capito bene, San Giovanni di Sassari. E andiamo in un canale pulito, vedrai che arrivi. Ciao Luigi, ci sentiamo, là. Chiuso un po' la tua microfono, capisco, là. C'è un po' di fastidio, ma proprio già risolvete tutto. Comunque già, è vero che l'apparato a cui mette il microfono fa molto, eh. Capito già, qua risponde molto bene perché il 3009 esce limpido, cristallino. 48 magari più con toni un po' più bassi. Con il mio, con 48 qui va bene. Poi c'è il rosso rossino, sai, se infatti quando c'ho tempo l'ho portato da lì, semplicemente faccio rimettere praticamente ho il microfono preso il tastino buttato nuovo finale, dai, poi il finale dello stesso apparito, però l'avevo rotto, la per me la caduta era che era spaccata, quindi non l'ho più tirato, l'ho girato, però originale ce l'ho, c'è da mettere il rossino se basta. Eia. Bene, dove saranno? Ah no, c'ho il pendolo, vedo niente, sono sovrapposte le lancette, cosa sono? Le 8 meno 20? Ah, 7 e 20 sono. 7 e 20, aspetta, guardo da vicino, non lo vedo nemmeno qua, c'è il riflesso della luce. Sì, sì, le 8 meno 25 sono, guarda qui, ah, l'orologio si è mosso, ha aperto l'affare, si è mosso. Eia, bene, bene. Io che non so cosa dire, già inventati qualcosa. Anche oggi non siamo usciti, boh. Diventato alienante, boh. Oh, vabbè, d'altronde dove cavolo vai qui a Sassari? Sempre i soliti cosi, fossi a Roma, a Milano ce ne sarebbero i negozi da visitare, di baracchini, di tutto, di tutto. E altre cose qua non le trovi, anzi troppe cose qua non le trovi. Sì, Marco, anche lì c'è la scelta, magari non ha più la voglia, la costanza di prima, che volta magari le piace, ma poi magari se non ne ha voglia non esce, e quindi in una certa età poi non c'è più voglia di fare nulla. Eia, e una volta lo faceva di più, ma a periodi, dai, a periodi, ma cappa. Che microfono, che batteria ho messo qua? Ah no, qua c'è una Energizer, era già la prima, stata nel 2020, vabbè, ma si scaricherà prima. Aspetta che chiudo. La scaletta è in base a quanto la tieni, non è come la usi, se la usi di più normale che non dura 50 anni. Eia, ehi, sarebbe troppo bello. Quello è lo stoccaggio massimo, cioè massimo, poi comincia a degradarci un po', come i filtri della maschera antigas, giustamente. Questi durano anche 20 anni, lo sai, 20 anni. Però una volta aperti durano poche ore, se respiri gas, oppure vari giorni, varie settimane, in base a quanto li usi, capito? Eia, eia. E riprendi, OJ. Se ne è andato. Ah, è andato proprio, perché aveva ripreso prima anche. Da quanto gli cambia la voce quel microfono con quel baracchino, si chiamava Giuseppe. Incredibile. Gli aggiunge almeno 50 anni di età. Perché sembra che abbia la patata in bocca, sembra, è un bel cupo, ecco. Non può essere, o è la capsula che per la sua voce non va bene, la voce è grossa, e quei microfoni vanno bene, perché la voce fina come non vanno bene con questa voce qua. Sì, la voce grossa magari rimangono cupi. Sì, sì, infatti. Ma il boccione, il boccione, lo fa cupo. Io avrei voluto una voce più profonda, più tipo Fabrizio De André, mi sarebbe piaciuto molto avere una voce, invece una voce da soggetto. Ma io c'è la voce che ha, non si può operare a corde vocali, io la voce non è una cosa importante, questa, anche perché canta, e per me che lo cantiamo, che te frega. Rose rosse per te ho portato stasera. Paoletto. Mi balla pomodoro. E poi si mangiava le parole certe volte. Per esempio uno gli ha detto, attenzione Paoletto che ti attacca la finocchiaggine, e lui no, io non attacco la ficcosaggine a nessuno. Certe parole non le sapeva articolare bene, capito? Andiamo d'accordo di me. Sei uguale, sì. Falcone 2, adesso ti chiamo. Siamo due arrivi. Oh, ci dia, mi sono l'ascolto, già te l'ho fatto sentire. Aspetta, ha parlato qualcuno sotto, chi vuole entrare? Buonasera, siamo 2-0. 2-0? Ma partita c'è oggi? E allora, se lo sai, ci manco io, ci manca Claudio, quello può essere, la partita, no? Ah, adesso si spiega tutto, ecco perché Claudio non è entrato stasera, c'era la partita. E sicuramente è della Juve. È ovvio, no? Il recupero di una partita che non aveva giocato perché era andata a fare la partita di Coppa, allora. Ecco. Vabbè, dai. E a che ora è iniziata? Alle 6:30, a che ora può essere iniziata? Alle 6, sta quasi per finire. E contro di chi è? Crotone, Calabria. Juve Crotone, così è. Ovviamente vince la Juve. No, Crotone Juve. 2-0 sta vincendo la Juve. Eia. Adesso sì, giustamente Claudio non c'è perché sicuramente è nell'altro salone. Non è nella camera delle radio, è nell'altro salone. Vabbè, dai. Buono, ben entrato Giulio, dai. Noi siamo, io, noi, perché noi, plurale maiestate, io sto usando il DM1000, DM1000 con Superstar 3009, K. Ultimo quel microfono, traversa della Juve, la porca miseria, poteva essere il terzo gol, ma andiamo bene così, dai. Sì, me l'ha fatto sentire Stefano, me l'ha mandato tramite WhatsApp, molto più bello questo. Lo ZG invece è più acuto da Palmo, lo ZG da Palmo è più acuto, questo è molto molto più piacevole. Sì, e poi è anche molto forte, per cui va bene, ecco, ci sono problemi, va bene, continuo ad andare alla partita, ci manca qualche minuto ancora e poi casomai se ci siete entro di nuovo per salutare, perché intanto c'è fatta già l'ora della cena quasi. Senti Gianni, riprendo con la partita, cioè continuo ad andare la partita, che la sto guardando lo stesso. Ciao Giù, che ti vuole la partita mangiando, va. Quanto manca la fine? E pochi minuti già, non ci vuole molto. Guardi, c'è ancora, se li può far segnare. Beh, ma sono le due, un po' difficile, adesso va. Ma poi stai giocando alla porta, la Juve, quella, schiacciati. Bene, dai, buona carica quando la fai Giulio, se non vinci, dai, avanti Marco. Ehi, ciao Giulio, dai, buona visione e buona cena se non rientri, dai, se no, vabbè, ritieniti salutato, dai, se non rientri. Io Gianni, ui, tutta chirosata, che vita di cacca che sto facendo però, e devo riconoscerlo, vabbè che... Giustamente in inverno che vita fai? C'è brutto tempo, forse primavera uscirei molto di più e andrei in zona di mare e comunque lo sai che mi voglio, dovrei ricominciare a pescare, mi faccio il tesserino nuovo lì, il permesso, come lo vuoi chiamare, quello fogliettino stampato, voglio riprendere le canne in mano dopo tanti anni, perché sono anni, e provare là. Provare a pescare da qualche parte, vediamo cosa ne esce. Tutta una volta mi piaceva, solo che di notte soffro l'umidità. Di notte a parte non vedi una mazza, no? Devi portarti pile, lampada a gas. E molto l'umidità c'è di notte, più che freddo, l'umidità è che frega, capito? Cosa, dove va messo le lampioni si vede benissimo, è la pila solo in testa, non devo mettere l'esca, la uso e basta, l'accendo solo in quel momento e buco, no, tu la vedi un po' tragica. Le lampioni dove va messo? Vabbè, io invece non ci posso andare perché secondo te guarisce del tutto, mi entra una sabbia dentro e una volta sono andato e ho trovato un granello di sabbia proprio, un cazzo grande quanto un po' di sabbia, spara. Con tutto che gli avevo messo, sai che cosa per proteggere? Con la carta qui attorno, da trasparente, proteggere il piede, la carta sopra, tutto tanto qui, dallo stile, come cavolo ha fatto, non so, magari anche retirando, se ne cade le palle. Trovato questa sale qua, ho preso una rasa la notte, sto cominciando a... Eia, anche se è bello il gesto del pescare, ma alla fine io non lo mangio il pesce pescato. Non l'ho mai mangiato, magari l'ho dato a altri, il poco che ho pescato, no? verso un mare di Platamona, è sempre troppo interno, anche tu dici sì, entrano da fuori magari le orate, il problema è che mangiano nel mare interno, che magari non è pulitissimo il fondo, non lo so, ti mangi i pesci pescati a Plata? Stai dicendo che si dia, Marco, l'orata viene da fuori, non è stanziale l'orata viene da fuori, entra di notte quando c'è calma, che di giorno, però è molto più lontana di giorno, dire si avvicina di è un pesce stanziale, è un pesce che viene dall'alto. Savona non è un mare inquinato, sotto Molo Asi, dove le pescano, cazzo che sono le orate lì, non viene mai. Ma Platamona io le orate che ho preso le ho sempre mangiate, sono state pulite e gli altri pesci, ho preso delle belle morgole anche da 600-700 anni. A me piaceva l'orata, sai come, fatta, c'è un sale grosso, coperta col sale, cotta la sale grosso, no? Poi levi la pelle, la mangi, mamma mia che buona. Una volta non l'abbiamo più presa, sai perché? Scioccati da, tra virgolette, no? Ho preso le orate al mercato, poi andiamo a farle ed erano puzzolenti. Avevo odore di cadavere, dalla volta non abbiamo più comprate, lo sai. Era da tornare in fretta al mercato, tanto quelli stanno lì a pulire, e sbattergli alla faccia, dire annuncia questa orata. Molta, capito? Sul momento non sembrava, perché c'era il vecchio mercato, la puzza del pesce è molto intensa, lì l'odore del pesce. La casa era puzzinosa, c'era da tornare e tirargli alla faccia, lo sai. Ti hanno dato sicuramente le orate fragili di quelle che avevano da prima. Noi abbiamo un riciclo di pesce, lo lavoro io, che è allucinante. C'è la gente che aspetta che arrivi addirittura la mattina presto e fa certi banconi che pesci vedono che vuole premiato, bellissimo, una bella esposizione. E poco tempo lo finiamo, non ci dura manco la sera a volte. E rendiamo tutto completamente in una giornata. Ma casse e casse di roba, orate, di tutto e di più, dipende anche dove lo pesco il pesce, cioè io dove lo pesco io non ho mai avuto problemi. Io conosco gente che va a Molo Asi, dove quando parte la nave lascia la schiuma e dura un quarto d'ora galleggiando la schiuma che c'è più e la roba che c'è sotto. E magari hanno anche il coraggio di mangiarsi il pesce. Ma lo vedono al ristorante, capito? Poi lo fanno mangiare a chi va al ristorante. Andiamo bene, mi. Come i ricci, magari pigliano i ricci in quelle schifezze là, dove hanno i ristoranti, mamma mia. Ho sentito la storia che per aumentare il volume dei ricci ci mettono il rosso dell'uovo, no? Che sembra riccio sciolto, lo sai. E quindi con poco si beccano per i soldi. Tutte le scovano, guarda. Verità. Sì, dal giorno orate non abbiamo più comprate. E sai che quel giorno invece Martino, l'amico qua di famiglia, se puzzava, se l'è mangiata lo stesso perché aveva fame. E io, va via. Ha avuto il coraggio di mangiarsela, ma poteva fargli anche male, no? Beh, quella non è fresca, ti può far male, sì, vabbè. No, io già lo conosco il pesce, lo so quando è fragile e quando è fresco, si vede, la voce dagli occhi, deve avere gli occhi rossi attorno, basta che gli alzi le branche, deve avere le belle rosse, pallide, vuol dire che c'è da 50 anni, la biancastra, così via dice, perché non è fresco, devono essere belle rosse le branche. Iaia. So chi l'aveva fatta la spesa quella volta, se mamma Martino, o assieme, boh. C'era il mercato vecchio, adesso hanno fatto questa opera tutta luci, corridoio, tutto bello, tutto lucido. Chissà quanto hanno speso. Invece questi giorni stiamo mangiando, che ne so, merluzzo fatto con i capperi. È buono. Senza spine, mi finetto il merluzzo, bello anche per quello. Non devi stare a spinare. Invece le rosse arancioni, come si chiamano, le triglie, tutto spine, devi stare a spinare, c'è più spine che carne. Finita la partita, 2-0, va bene, vi saluto, dai, ciao, adesso vado a cenare, Marco e ciao Gianni, ci sentiamo domani, Claudio se ci hai ascolto, auguri, è tutto lì, non posso dire altro, riprendi pure Marco, vai. Ciao Giulio, dai, se vai a mangiare. Dai, sentiamo se entro domani in orario, insomma un po' più presto, dai. Claudio, sei all'ascolto? Adesso sta brindandomi perché ha vinto la Juve, vai Gianni. Ma c'è da portare il cane sicuramente. C'è un leggero mal di testa, ecco che capisco. E la labirintite di nuovo, va in ora a mare. E cosa stavo dicendo? A me il pesce in genere non piace, io però quando prendevo le orate, che ne avevo un bel po', facevamo le arrostite con gli amici pure e ne facevamo al sale, però sale fino, non sale grosso. Le impanevamo con il sale, con sale fino e poi le mettevo sulla graticola. Se non viene la pelle da sola, pure la fine, no? Quando tu arrostisci bene, la pelle ti esce da sola. Ma la carne sta pulitissima, il sapore dell'orate. Sì, esatto, era molto molto, sì, la pelle si staccava da sola, è buona era, poi ci abbiamo perso un po' la mano, adesso siamo più per il merluzzo, per il pangasio, per l'altro, come si chiama, nasello, mi sa toccato il naso, mi è venuto in mente il nasello. Se sono da 15 senza mangiare, addirittura ci sono andato a fare la spesa e mi sono fermato avanti i pesci, cosa prendo, cosa non prendo, poi io so cosa ho preso, i suli di granchio, piccoli lì, e un po' di cotte, e arsele, questa roba qua, perché voglio fare il riso scarpone, e niente, quella roba lì, però il pesce è buono, io non è che siamo molto amico del pesce, sai cosa mi piace, mangia tutto, e le acquerelle là, quello lì le impani e le mangi tutte quante, senza quelle né testa né spina, nulla, quasi. Oh, ah, i pesciolini si dicono mangia tutto, si fanno fritti o in tortiera. Quelli che si fanno fritti, e poi mi devi dire come fai a cucinare l'orata al sale col sale grosso, fai. Guarda, che io ricordi mettevano il sale grosso sotto e sopra e poi lo mettevano, mi pare, al forno o comunque in una teglia coperta dalla coperchio. Sono passati tanti anni già, sale grosso. Spostavi il sale, levavi la pelle che proprio si staccava da sola e mangiavi la carne ed era bella saporita. Così facevano, forse è una ricetta che fanno a Palau, perché questo amico era di Palau, no? Si impanano con sale fino, capito? Si mette il sale fino e poi si fanno come se fosse pane grattugiato, così si hanno una parte alta e poi si mettono sulla grattugia buona. Lo sale grosso non attacca, come si grattugia? Beh, un po' salate erano. Magari gli passi un po' il sale grosso così sopra, tanto per farne insaporire. Comunque è veramente buono. Naturalmente a me piacevano non troppo salate, giustamente, perché se no fa salire anche la pressione. E questo amico è di Palau, questo amico, che è rivelato Giuda. Capito. La gente non ti stupisce mai, Gianni, soprattutto chi è molto vicino alla famiglia. Mamma mia. Non ci pensiamo, che se no lo stesso le amicizie sono molto molto relative. Sì, sì, me l'avevi detto, ma non lo ricordo. Dal bagno, vabbè, capito. Capito, è stato fregato dalla sua stessa alma, perché lui si vantava, so le, i cavoli e le corna di tutti a Palau, là. E insomma, poi andava dal bagno, beh, con un'altra persona. Io per caso me ne sono accorto, presentivo questo e dice Vittorio, ho detto ma allora c'è un cellulare in strada, guarda in strada non c'era nessuno, magari è sopra al piano di sopra, beh, proviamo a accendere, a mettere la frequenza giusta. Ecco, questa frequenza a fondo scala, infatti era lui, ho staccato anche l'antenna, no, per essere sicuro che fosse in zona, infatti ho riconosciuto la voce, capito? Quando mamma gliel'ha detto poi al telefono tempo dopo, ci è rimasto di merda, lo sai, non se l'aspettava lui di essere stato chiamato, ci è rimasto di merda. Col ricevitore l'hai intercettato? Eia, era un Bearcat, un Uniden Bearcat da tavolo. E prima c'erano, avevo beccato una volta una del palazzo che stava chiedendo di incostile, perché ha telefonato con queste professoresse che ti usano, raccomando non me la bocciare, no, non ti pare. Guarda, prima bello sentire tutto quello, mamma mia, fa, non vedo i picchi sullo smitter. Ah no, appena appena lo fa. Dracula! Staccato l'hai, rotta pigna. Eia, ogni tanto sai com'è, siccome non è una cosa professionale, la tensione delle molle lo fa scattare, slittano e si sferma. Bisogna caricarlo poco, in modo da non mandare troppo in tensione le molle. Ma io fermo mesi, mesi. Lo avevo attaccato così per avere anche un orologio qua, perché non ne ho. Che bello il suono, che no? Io ho la casa piena di orologi. Non mi manca la lista da bassi, ce l'ho in cameretta, ce l'ho qua, ce l'ho in cucina. Poi, non me ne manca di orologi. Cioè, quello che mi dà fastidio è quando cambia l'orario, ma devo stare rappiccandomi a... rappiccandomi a mettere a posto le lancette. Via. Esempio, io non porto più l'orologio da polso, prima lo portavo più volentieri, poi è diventato un impedimento, lo sai, mi dà fastidio portarlo. Raramente mi vedi con l'orologio da polso, so perché. Infatti me l'ha fatto, mi faceva sudare il polso, mi dava un fastidio e non l'ho più messo. Anzi, l'ho messo giorni fa per una volta, per una mattina, poi non l'ho più messo. Tutto strano sono io. Invece va bene, le altre stanze ci sono, gli orologi. Il pentolo è più carino, finché funziona lo faccio funzionare, dai. Quando si fa il tutto mi giace il cassonetto. Ma cos'è, cinese? Sì, era comprato lo Shan, non è roba antica pregiata. Sicuramente è fatto in Cina, anzi mi è sembrato proprio di leggerlo sulla scatola. Per noce, carino, non troppo grande, alto una quarantina di centimetri, forse qualcosa in più, è largo 25-30, qualcosa del genere. Via, costava 30 euro, cosa che siano. Un po' avevo trovato insomma a svidarmi, dai, vuole scendere giù. Ti sentiamo, se ti vuoi far vedere non c'è problema. Io domani va bene, devo andare a prendere a Manuela all'aeroporto, fino a magari sono sul tardi a casa. Da dopodomani in poi sono sempre in casa, non c'è problema. Ehi, non c'è pericolo, Michi, la mattina. Io la mattina mi giro dall'altra parte nel letto, capito? Certe volte che facciamo commissioni, allora esco presto. Ok, va bene, buona passeggiata con il cane, dai. E ci sentiamo al baracchino anche domani, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Marco. Ci sentiamo, buonasera.